battaglia di Fossalta. Dicevamo che uno dei motivi per cui Bologna era famosa, a metà del 1200, era la presenza in città di un prigioniero eccellente, Enzo, re di Sardegna, figlio naturale dell'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II di Svevia. Dato il rango del detenuto, si dovette scegliere una prigione appropriata e allo scopo venne rapidamente convertito il cosiddetto Palatium Novum, Palazzo Nuovo, appena costruito a ridosso del Palazzo del Podestà, del quale doveva essere inizialmente una sorta di ampliamento per lo svolgimento delle attività amministrative. Da quel momento in poi, l'edificio è noto come Palazzo Re Enzo ed è stato la dimora del re dalla cattura, 1249, alla morte, 1272. L'aspetto originario di Palazzo Re Enzo è stato conservato abbastanza fedelmente nel corso dei secoli, nonostante i numerosi restauri, ed è ancora possibile ammirare le facciate dei lati ovest, quello che dà sulla Fontana del Nettuno, e nord, su Via Rizzoli, in stile gotico, con le sue eleganti finestre dagli archi a sesto acuto. Il loggiato del cortile interno è suggestivo e dal forte sapore medievale. È lì che venivano conservate le macchine da guerra e il carroccio della città, ovvero il carro con le insegne del comune intorno al quale, durante le battaglie, si radunavano le truppe. Da notare che le merlature del palazzo sono in stile ghibellino, a coda di rondine, perché sono state sostanzialmente ricostruite durante l'ultimo restauro ai primi del Novecento. La cattura di Re Enzo avvenne nell'ambito di una lotta di potere che si protraeva da anni e che contrapponeva Federico II di Svevia al Papa. L'imperatore, infatti, era un grande amante della letteratura e delle arti figurative, almeno quanto lo era delle arti della guerra. Mirava a unificare l'impero, estendendo il suo dominio anche ai territori sotto la sovranità papale. Il confronto non mancò di infiammare gli animi tra le fazioni guelfe, filo papali, e quelle ghibelline, filo imperiali, anche all'interno della stessa città. Il sentimento prevalente a Bologna era tuttavia guelfo, e questo lo contrapponeva alla ghibellina Modena, dando origine a una rivalità che sarebbe durata secoli. Il 26 maggio del 1249, mentre si preparavano all'assedio di Modena, le truppe bolognesi furono sorprese sulle rive del Panaro dalle truppe imperiali comandate da Re Enzo, giunto in supporto degli alleati. Questa la ricostruzione della battaglia secondo lo storico Antonio Ivan Pini. Enzo, NDA, cominciò ad attaccare i guastatori bolognesi intenti a far legna per la costruzione del ponte. Le grida di costoro spinsero i bolognesi ad attraversare in massa e precipitosamente il fiume, mentre i loro squadroni di cavalleria, con ampio movimento avvolgente, sorprendevano ai fianchi l'esercito imperiale disorganizzato. Enzo ordinò la ritirata, ma rimase a proteggere la retroguardia con i suoi cavalieri tedeschi. Un rallentamento della ritirata avvenne alla Fossalta a causa di un torrente ingrossato dalle acque. Da qui verso Modena la ritirata si trasformò in rotta disastrosa. Lo stesso Enzo, giunto in località San Lazzaro, fu rovesciato e venne ben presto catturato. Si dice che Federico II offrì una ricompensa a Bologna per riscattare il figlio, una catena d'oro così lunga da cingere le intere mura della città. Un'offerta che, orgogliosamente, il comune rifiutò. Quella di Re Enzo fu naturalmente una detenzione dorata, dato che al prigioniero non era permesso di lasciare il palazzo, ma gli era consentito di ricevere visite e avere dei servitori, come se la sua dimora coatta fosse una vera e propria corte. Gli fu permesso anche di intrattenere frequentazioni femminili, al punto che durante la detenzione Re Enzo ebbe ben 3 figli. Da qui la leggenda. Il re si sarebbe innamorato perdutamente di una certa Lucia da Viadagola, ripetendole spesso «Mia cara, quanto ben ti voglio!». Loro figlio sarebbe stato il capostipite della casata che nel 400 fu la più potente di Bologna, anche se, naturalmente, non c'è alcuna fonte storica che attesti la discendenza reale dei ben ti voglio. Un'altra leggenda vuole che Re Enzo abbia tentato la fuga con l'aiuto di un fornaio, che lo avrebbe caricato nella cesta in cui trasportava il pane. Una donna, affacciandosi alla finestra della sua abitazione, vedendo i biondi capelli del re fuori uscire dal cesto, avrebbe gridato «Scappa!», mandando a monte il piano. I suoi figli ricevettero così l'appellativo di Scappi, diventando capostipiti della casata Scappi, poi proprietari dell'omonima torre. Un palazzo.